Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati ad una nuova puntata di Salva Danaio. Allora, i consumatori italiani stanno attendendo da almeno un paio d'anni che nel nostro ordinamento venga introdotta la legge che disciplina la class action, vale a dire l'azione di risarcimento collettivo. Per dirla in maniera semplice, lo strumento con cui difendersi dalle imprese che non operano in maniera corretta dal punto di vista commerciale, ma non solo. È una questione molto delicata che si cerca appunto di disciplinare da anni senza successo, perché sarebbe qualcosa di completamente nuovo per il nostro paese. Quindi si cerca di studiare la cornice normativa migliore. Si è concordato sul fatto che l'esatta estensione del modello americano, molto famoso, raccontato anche in film di successo, non è esattamente fattibile. E allora in questi giorni sono tornate sul piede di guerra le associazioni dei consumatori. Perché? Perché il ritorno al Senato del disegno di legge collegato alla finanziaria, che contiene le norme sull'azione collettiva, è stato un ritorno emendato, cioè contenente un emendamento, una modifica che ne cancella la retroattività, anche se non è solamente questo il punto che ha fatto scattare di nuovo sull'attenti appunto le associazioni dei consumatori. Il dibattito comunque si è riacceso prepotentemente. Ce la faremo per il 1 luglio, data per la quale è fissata dopo rinvii dell'anno scorso l'entrata in vigore della class action. Questa mattina cercheremo di capirlo con i nostri ospiti, il collega del Sole 24 Ore che ne continua a scrivere da tanto tempo, Giovanni Negri, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a voi. E buongiorno anche, grazie di essere con noi, all'avvocato Silvano N dello studio legale Legans e Associati. Ben arrivato. Buongiorno, ben trovato, anzi, perché per la prima volta con noi a Salva Danaio. Quindi, dicevo, grazie. Questione molto, molto delicata, per certi versi anche molto complicata, ma comunque è come dire, una novità che è molto attesa da tempo da parte dei consumatori italiani, che, come sapete, ogni tanto ne hanno una per molte aziende, per problematiche legate a disservizi, pratiche commerciali scorretti. Insomma, cercheremo di capire allora quale potrà essere, qualora il 1 luglio dovessimo avere questa norma, l'ambito e il raggio d'azione delle associazioni dei consumatori e questo strumento quali diritti nostri andrebbe a tutelare. Il numero verde per i vostri interventi è l'800 24 00 24. Scriveteci se ne avete letto in questi giorni sui giornali, noi avete capito molto di che cosa stiamo parlando. 349 238 6666 è invece il numero per i vostri messaggi. Un'occhiata rapida la borsa, oggi debole, l'Europa in questo momento sono sulla parità Parigi e Francoforte, negativa Londra per lo 0,4% e Milano perde un po' più delle altre, meno 0,88%, giornata fitta di impegni per le società che stanno comunicando le loro trimestrali, e infatti il mercato sta premiando quella di Mediaset, più 3,90, attende fiducioso quella di Buzzi che viene rassegnata oggi, più 3,67, questo titolo per la verità era partito con una fiammata stamattina del 9%, poi rapidamente ridimensionata, Finmeccanica più 2,57, Telecom, il mercato è convinto che il gruppo vada verso la fusione con Telefonica e anche oggi il titolo in rialzo di 2 punti. Ansaldo più 1,60, Eni più 1,45 grazie ai prezzi del petrolio che sono tornati a crescere negli ultimi giorni, ieri di nuovo un picco a $60, oggi a 59. Terna più 1,11, A2A più 0,8%, mentre tra i ribassi troviamo quello molto sostenuto del Banco Popolare, meno 7,34, oggi stanno scendendo tutti i titoli bancari in tutta Europa, ma il Banco Popolare da metà marzo ha fatto qualcosa come il più 200%, per cui questa frenata ci sta anche, direi. Oggi Bulgari, i Conti meno 5%, Ubibanca meno 4,40, Fondiaria meno 3,70, i Conti li ha rassegnati anche Unicredit, erano molto attesi, il titolo è partito molto bene con un rialzo di 2 punti, stamattina poi un rialzo cancellato, è stata invertita completamente la rotta, adesso il titolo di Piazza Cordusio perde l'1,78%. Rapporto euro-dollaro a 1,36,50, lasciamo la borsa, andiamo alla class action. Si riapre il cantiere della class action, anche se il traguardo sembra ancora lontano. Questa azione collettiva di provenienza americana, gli italiani la conoscono probabilmente grazie ai libri di John Grisham e a tanti film come quello dedicato a Erin Brockovich, interpretato da Julia Roberts. Ma la possibilità per un gruppo di consumatori di agire in giudizio come una classe per un'azione di risarcimento collettivo è stata introdotta, non senza polemiche, anche nel nostro paese. Prevista inizialmente dalla finanziaria 2008, sarebbe dovuta entrare in vigore il 29 giugno dello scorso anno. Ora, dopo vari rinvii, sembra finalmente pronta a partire con un anno di ritardo il prossimo 1° di luglio. Nonostante ieri al Senato sia ripresa la discussione, sono ancora molti i nodi da sciogliere sulla causa collettiva all'italiana. Il più controverso è quello della retroattività. Un emendamento presentato la scorsa settimana la escluderebbe, anche solo per un anno, come era stato previsto in un primo momento. La modifica renderebbe così inapplicabile questo strumento giuridico anche per la vicenda Alitalia, oltre che per i precedenti crack finanziari di Parmalat, Cirio e Bond Argentini. La distanza tra governo e consumatori potrebbe però accorciarsi grazie a una serie di proposte presentate dalle associazioni Adiconsum, Cittadinanza Attiva e Unione Consumatori. Sulla legittimazione ad agire, le associazioni chiedono che sia ammessa non solo per i singoli consumatori, ma anche per le associazioni riconosciute, come previsto nella versione originaria della class action approvata nella finanziaria 2008. Si chiede poi di estendere l'azione collettiva ai diritti e agli interessi omogenei e non di restringerla esclusivamente a posizioni identiche e di eliminare la previsione secondo cui ogni consumatore deve portare la propria documentazione alla cancelleria del tribunale, cosa che finirebbe per paralizzare molti uffici giudiziari. Infine, andrebbe cancellata la disposizione che impone una sanzione nei confronti del consumatore nel caso in cui l'autorità giudiziaria stabilisca l'inammissibilità della domanda di azione collettiva. In questo modo verrebbero colpiti, secondo le associazioni dei consumatori, proprio i soggetti che dovrebbero essere tutelati dalla class action. Ma le critiche a questo strumento arrivano anche dal mondo imprenditoriale, dai dubbi sulla retroattività alla procedura di risarcimento. Inoltre, la lunghezza del procedimento giudiziario, oltre ai ritardi e alle sovrapposizioni di più procedimenti, porterebbero alle imprese un danno non solo economico, ma anche di immagine. Insomma, i nodi da sciogliere sono moltissimi. 800 24 00 24, gli ascoltatori si sono scatenati al nostro numero verde proprio sulla questione Alitalia. Adesso entreremo anche nel merito di questo, però prima di sentire anche le voci dei presidenti delle associazioni dei consumatori che abbiamo citato poco fa, vorrei capire anche qual è il percorso legislativo che è maturato in queste ultime ore. Giovanni Negri, ieri ripresa, dicevamo, la discussione al Senato, poi è mancato il numero legale, mi sembra che si sia arenato tutto. Oggi potrebbe essere la giornata buona per sfornare la norma di cui stiamo parlando questa mattina? Staremo a vedere. Diciamo che in queste ore, in questi minuti anzi, sono in corso le votazioni. Teniamo conto che si tratta, che il provvedimento nel quale è collocata la class action è un provvedimento estremamente eterogeneo, tanto per darvi un'idea, è il provvedimento anche che contiene le aperture al nucleare, al ritorno al nucleare in Italia. È un collegato alla finanziaria, un collegato che si occupa in gran parte di energia, vi è stata collocata per l'urgenza di arrivare ad una definizione, ad una soluzione condivisa anche d'azione collettiva, e anche perché comunque c'era una scadenza temporale ben precisa, che è quella che è stata ricordata anche dalla scheda che ha introdotto la trasmissione, che è quella del 1° luglio, cioè se non si fa nulla entro il 1° luglio entrerà in vigore la vecchia versione della class action, che aveva diversi profili critici e lasciava molti insoddisfatti. Quindi mi stai dicendo che teoricamente, per quanto appunto le associazioni dei consumatori siano ancora insoddisfatte, questa formulazione è comunque migliorativa della precedente? A mio secondo il tuo giudizio, naturalmente poi è chiaro che le parti in causa, gli interessati, magari anche le imprese non sono contente di questa formulazione. Beh, questo naturalmente dipende sempre dai punti di vista, infatti. Insomma, ecco, sappiamo, le associazioni dei consumatori sono molto insoddisfatte. Adesso da parte delle associazioni imprenditoriali credo che si consideri la versione che sta prendendo lentamente forma comunque migliorativa sotto una serie di punti ben precisi, dagli interessi che possono essere tutelati attraverso questa forma inedita per il nostro ordinamento giuridico, e passando anche ad un procedimento che comunque sarebbe, insomma, un pochino più chiaro e meno esposto ad abusi. Ecco, dire se ce la faremo per la scadenza del primo luglio secondo me è molto molto difficile. Può anche essere che, come spesso succede in Italia, insomma come è successo già due volte per quanto riguarda la class action, si arrivi ad un nuovo rinvio, nell'attesa che questo provvedimento venga poi approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. Tenuto conto che se anche venisse toccata una sola norma, ma non della class action, anche del, che so, del esattamente, nucleare, tutto il pacchetto deve ritornare indietro in al Senato, quindi, infatti, insomma. No, tra l'altro stavamo anche sorridendo con Giovanni prima dell'inizio della trasmissione, perché abbiamo una guida del Sole 24 Ore che è stata pubblicata esattamente un anno fa, in giugno di un anno fa, proprio in attesa del varo della normativa che avrebbe dovuto entrare in vigore invece il 30 giugno, era già tutto pronto, insomma, invece anche questa guida poi non abbiamo fatto più niente, ne discutemmo con Marco Bellinazzo, abbiamo presentato lo scorso anno tutta la norma secondo l'impostazione appunto di un anno fa, dopodiché nulla di fatto, e chissà che non possa accadere anche quest'anno. Detto questo, però, discutiamo di quello di cui abbiamo. Avvocato En, adesso le portiamo la bottiglia d'acqua, glielo prometto, non appena andiamo in pausa fra qualche minuto. E allora, tra l'altro, adesso lo sentiremo il presidente di Adiconsum, l'associazione dei consumatori, molto battagliera intorno alle novità. Le associazioni dei consumatori hanno organizzato questa conferenza stampa 2 giorni fa, chiedendo di tornare a ridiscutere di 5 punti in particolare, li abbiamo anche definiti nella nostra scheda, ma Adiconsum dice anche la class action non può trasformarsi in un business per gli studi legali, molto provocatoriamente. Secondo lei perché dice questo? Non bisognerebbe chiederlo a lui, insomma, francamente non so, immagino perché sia forse nella sua voglio dire stesura fonte di interpretazioni varie e quindi di interventi da parte degli operatori del diritto, fra cui anche gli avvocati. Penso che sia questo forse lo scopo, sì, diciamo, di questa affermazione. Le ho dato anche un benvenuto forse non troppo gradevole. Detto questo, no, senta, per le pratiche commerciali scorretti, per tutto ciò che è attinente ad un disservizio di un'azienda, insomma, noi abbiamo degli strumenti nel nostro paese per difenderci, abbiamo anche un codice del consumo. Che relazione ci sarà, se la normativa nella formulazione attuale dovesse entrare in vigore, tra la norma della class action e il codice del consumo, avvocato? Secondo me la class action dovrebbe essere sì, perché praticamente vengono a essere modificati alcuni articoli del codice di consumo, e quindi sostanzialmente si innesta una normativa che è già presente. E credo così, insomma, bisognerebbe vedere il testo finale. Penso, insomma, che sia la class action, se verrà introdotta nel nostro ordinamento giuridico, dovrebbe essere un momento di regolamentazione una volta per tutte di alcuni diritti sotto profili, diciamo, più generali, che allo Stato non sono, diciamo, del tutto presenti nel nostro ordinamento giuridico. Ecco infatti, quindi è più favorevole, secondo me, per chi e per varie persone che sono portatrici, voglio dire, di interessi simili, ecco, che possono evidentemente vedere questi loro diritti tutelati anche attraverso delle associazioni che hanno nel loro statuto, insomma, indicato che perseguono determinati fini di tutela appunto di certi soggetti. Ecco, penso che sia un passo avanti. Infatti un passo avanti, quindi questo è bene riconoscerlo. Il tema è, come dicevamo all'inizio, fare anche una cosa che possa andare bene per il nostro paese, per il nostro ordinamento, perché qua noi ovviamente non facciamo altro che parlare di class action, lo abbiamo ricordato anche nella nostra scheda, così, perché abbiamo come modello i libri americani del mondo legale di John Grisham, il modello di Erin Brockovich e di Julia Roberts, ma in realtà forse portare esattamente quel modello nel nostro paese non è così semplice, avvocato. Non credo, perché spesso, voglio dire, anche se noi in realtà subiamo l'influsso sotto vari profili del mondo anglosassone, in particolare di quello americano, non sempre abbiamo, voglio dire, l'opportunità di utilizzare tutti gli strumenti che sono stati evidentemente forgiati da ordinamenti giuridici diversi, che hanno quindi anche rispondono anche ad esigenze differenti rispetto alle nostre, che sono più tipiche del mondo continentale. Allora, adesso sentiamo le associazioni dei consumatori, però vorrei sentire anche subito un ascoltatore, Giuliano da Vicenza, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno. Io Giuliano. Cercherò di essere breve. Sì. Ho vissuto tempi borsistici molto importanti e ricordo quando ci fu la legge sull'OPA, che qualche giorno prima venne ceduta la Cementir ai signori Caltagirone. Sì. E l'antico Andreotti venne a fare una visita in borsa e la borsa lo accolse con dei fischi. Cementir, sì. Perché crearono la legge sull'OPA dopo aver collocato la Cementir. Quindi, in sostanza, se non riesco a ricostruire la vicenda, quindi diciamo che i piccoli azionisti non si sentirono tutelati dalle nuove normative? È quello che dico. Allora, siccome adesso siamo in una situazione con la legge, con la class action, che riguarda, non si capisce bene che cosa e stanno lavorando per fare, ritorniamo, la metto insieme con Alitalia, per la quale non si sa bene se rimarrà dentro o non rimarrà dentro. Tutto tace sulla qualità del rimborso. Un obbligazionista cosa potrà fare dopo questa legge in funzione dei cambiamenti che vengono fatti? Allora Giuliano, le strade che possono essere percorse sono tante. Io credo che però se azionisti o obbligazionisti all'Italia dovessero fare affidamento sulla class action, Giovanni, da quello che si è capito fino a questo momento, mi pare che questo invece sia un punto molto chiaro. Non potranno fare un bel niente. Direi di sì, ahimè, nel senso che se la class action nella versione finale sarà quella oggi conosciuta, insomma, di cui si sta discutendo in questo momento al Senato, ed essendo stata eliminata anche quella limitatissima finestra di retroattività che era precedentemente prevista, e cioè un anno sostanzialmente, cioè dal 1 luglio 2008 al 1 luglio 2009, ecco, anche la possibilità di presentare un'azione collettiva per la vicenda delle obbligazioni all'Italia sarebbe, credo, definitivamente compromessa. Ma poi, tra l'altro, stavo pensando, qualora fosse mantenuta ipoteticamente la possibilità di agire in via retroattiva, qui contro chi si va ad agire? Avvocato N, non so, qua si ripartirebbe un'altra discussione su tutto un altro aspetto della vicenda, che è proprio sulla retroattività. Sì, perché c'è una società, diciamo una bad company, che evidentemente ha causato questi problemi e che dovrebbe essere il soggetto passivo di queste azioni, siano esse individuali o in ipotesi collettive. Sì, ma poi è una questione molto delicata. Io comunque, in ogni caso, forse anche per evitare altre possibili interpretazioni future su questa problematica, con la retroattività in ogni caso si cancella questa possibilità. Ci sono comunque altre vie contro cui, come dire, perseguibili, ma su Alitalia abbiamo parlato tante volte, adesso non ci ritorniamo. In ogni caso, se ci poggiamo appunto sulle prospettive che potrà aprire la class action, essendoci appunto il nodo della retroattività molto chiaro, la norma non è retroattiva, ecco, su Alitalia non si può agire, così come non si può agire, non si potrà agire, anche perché molti consumatori avevano delle aspettative anche su questo, addirittura su casi anche più vecchi, Cirio, Parmalat, Bond argentini, Giovanni, quindi... Sì, devo dire anche che queste aspettative erano state alimentate dalla primitiva versione della class action, perché allora, cioè quando venne introdotta nell'ambito della finanziaria 2008, molto si dibatté sulla retroattività e si disse: ma la class action è uno strumento giuridico, quindi può essere fatto valere anche per il passato in quanto solo strumento, oppure attribuisce dei nuovi diritti e allora vale solo per il futuro? Ecco, non appaia appunto una disquisizione puramente giuridica o terminologica, perché sotto ci stanno interessi ben concreti. Devo dire che adesso con questa versione dell'azione collettiva viene definitivamente almeno sciolto questo nodo, credo in maniera del tutto insoddisfacente per i risparmiatori. Stiamo ripartendo con Salva Danaio questa mattina. Salva Danaio che sta tentando di capire cosa potrà accadere nelle prossime ore qualora la norma in discussione al Senato sulla class action dovesse passare. Insomma, aspettiamo che questa novità nel nostro ordinamento possa essere operativa a partire dal 1 luglio di quest'anno. Tutto dipenderà da questa giornata, però in ogni caso, qualora tutto passasse, cerchiamo anche di capire cosa potrebbe cambiare nei termini di tutela dei consumatori e come sarà possibile anche avviare queste azioni di risarcimento collettivo. Abbiamo parlato di Alitalia poco fa e gli ascoltatori all'800240024 continuano a chiamare interpellandoci su questo. Abbiamo già capito per chi è rimasto, come dire, con un portafoglio senza titoli di valore, perché o era azionista o obbligazionista di Alitalia, che comunque non sarà possibile agire contro nessuno perché la norma cancella, secondo questa formulazione, la retroattività. Detto questo, però, avvocato Silvano N, studio legale Legans e Associati, questa mattina con noi per spiegarci anche i termini giuridici, che sono piuttosto complicati per le novità in arrivo. La norma, nella sua formulazione attuale, se non ho capito male, parla comunque di consumatori e utenti, non parla di risparmiatori. Questo è in qualche maniera interessante, ai fini anche dell'interesse maturato da parte di molte associazioni di consumatori intorno a cause di risparmio tradito del passato? È una materia di interpretazione, bisogna vedere se i risparmiatori fanno parte o meno di queste due categorie, qualcuno lo ha escluso fra i primi commenti, quindi si tratterebbe di vedere se questa categoria è o meno ricompresa alla luce della concreta interpretazione della norma che faranno i giudici, immagino. Mm-hmm. Allora, Giovanni, volevi aggiungere qualcosa? No, devo dire che su questo aspetto sarà veramente determinante anche l'interpretazione l'autorità giudiziaria, perché trattandosi di uno strumento inedito, come abbiamo ricordato, per il nostro ordinamento, il giudice cosa dovrà fare come tra le prime cose? Cioè valutare la coerenza dello strumento rispetto all'interesse, cioè l'azione collettiva si poteva proporre per quel particolare interesse. Ecco, nella materia finanziaria obiettivamente c'è molta incertezza che si possa applicare la class action, un po' perché già all'interno della normativa di tutela del risparmio ci sono modalità anche di protezione collettiva, certo, dei risparmiatori, e un po' perché obiettivamente l'azione collettiva di cui stiamo discutendo è A, collocata nel codice del consumo, B, si parla sempre, come ricordavi, di consumatori e utenti di servizi. E di utenti. Quindi ecco, sulla materia degli investimenti obiettivamente c'è un'estrema incertezza. Infatti, tanto per l'utente cambiare. L'utente del servizio finanziario ci sembra un po' una forzatura. Allora, dicevamo, l'Associazione dei consumatori lunedì scorso in conferenza stampa per esprimere le loro perplessità rispetto alla formulazione che sta passando al Senato della norma sulla class action. Cominciamo con il sentire Massimiliano Dona, segretario generale Unione Nazionale Consumatori. Se fosse approvato il testo che è stato diffuso in questi giorni, la cosa più grave è che alle associazioni dei consumatori è impedito di farsi promotori di azioni collettive. È molto grave non tanto per un interesse di bottega, quanto perché il nostro interesse è che queste azioni si facciano. Il rischio in questo caso è che, dovendole fare il singolo danneggiato, quel signor Rossi, che non si azionava per i 20 euro indebitamente ritrovati nella sua bolletta, oggi dovrebbe azionarsi non solo per se stesso, ma anche per tutti gli altri che sono nella stessa situazione. È evidente che non ne troverà la forza. Un'altra delle finalità dell'azione collettiva dovrebbe essere quella di alleggerire il carico presente attualmente nelle aule di giustizia, sostituire a centinaia di migliaia di processi identici un unico processo in nome di tutti. Ecco, anche questa finalità crediamo che, così come congegnato, l'attuale class action non potrà risolverli. Le situazioni degli scandali finanziari hanno già intrapreso delle strade e forse la loro storia non sarà cambiata da un'azione collettiva retroattiva. Guardiamo al futuro. Ma per guardare al futuro è necessario che l'istituto sia funzionale e non solo un bluff per i consumatori. Questo è molto più importante dell'irretroattività. Avvocato N, allora, ammettendo di individuare un caso che come dire, esprime il presupposto di avviare una causa di risarcimento collettivo, come sarà possibile agire? Dipende evidentemente da quale sarà il testo finale, possiamo soltanto presumere che a seconda del testo che viene approvato ci sono soluzioni diverse. Una veniva accennata adesso dall'intervento dall'avvocato Dona, sì. Se in realtà passa la versione, per esempio, originale, quella della finanziaria 2008, allora le associazioni possono evidentemente rendersi parte attiva nel promuovere appunto un giudizio nei confronti dell'impresa che evidentemente ha posto in essere dei comportamenti scorretti. E quindi, voglio dire, sono legittimati in quanto la legge prevederebbe evidentemente questa possibilità. Tra l'altro, nella formulazione iniziale, quella di un anno fa, Giovanni Negri, erano invece solo le associazioni dei consumatori, sì, che avevano il diritto di avviare delle azioni risarcitorie. Sì, è vero, quindi credo che questa sia anche una delle ragioni dello scontento attuale delle associazioni dei consumatori. Adesso invece viene prevista anche la possibilità per il singolo di poter proporre autonomamente l'azione collettiva, purché sia in grado di aggregare attorno alla sua iniziativa giuridica l'interesse della classe. Che è proprio il modello americano questo, quello dei film. Sì, che è il modello americano, anche se noi abbiamo introdotto un sistema un pochino diverso, cioè rapidissimamente, mentre credo insomma nei paesi anglosassoni, in particolare negli Stati Uniti, c'è questo meccanismo di manifestazione della volontà per uscire dalla classe, cioè di opt-out. Cioè io sono automaticamente nella classe e nell'azione collettiva, se voglio uscire lo devo dire. Quindi capita anche che cittadini negli Stati Uniti si trovino in casella delle buste con dentro dei soldi, perché a loro insaputa facevano parte di una classe, di un'azione legale intentata, che poi è andata a buon fine. Da noi, per come è delineata sino adesso l'azione collettiva, è previsto invece un meccanismo cosiddetto di opt-in, cioè manifestazione di volontà per entrare nella classe. Quindi quando dicevamo avere il diritto poi ad avere eventualmente il soggetto collettivo o il singolo propongono l'azione, ma poi devono fare pubblicità a questa azione, quindi devono essere in grado di portare dentro nell'azione il maggior numero possibile, insomma, di soggetti. Anche il termine appunto proprio della pubblicità dell'azione collettiva è stato oggetto della, come dire, presa di posizione dell'Associazione dei consumatori. Avvocato N, su questo punto l'obbligo di informazione ai consumatori. Eh sì, perché dovrebbe essere un punto, voglio dire, focale, nel senso che se il consumatore non sa, non può partecipare, non può intervenire, mentre l'adesione dovrebbe essere un diritto del consumatore di poter in qualche modo intervenire attraverso appunto la propria adesione a quell'associazione che si è resa, diciamo, parte dirigente nel promuovere la controversia nei confronti dell'impresa che si è comportata, diciamo, non secondo diritto. Tra l'altro, quello che non abbiamo detto, anche questo è un punto molto importante, nel momento in cui, come dire, si coalizzino le forze necessarie per avviare una causa di risarcimento collettivo, ovviamente bisogna presentare l'istanza, la domanda al tribunale, che può dichiararla più o meno ammissibile. Qualora questa non venga dichiarata ammissibile, da quello che ho capito addirittura c'è la possibilità che venga punito il promotore dell'iniziativa con una sanzione, non ho capito bene. Sì, che tipo di punto esprime la legge? In caso di inammissibilità, in caso di declaratoria di inammissibilità, ci potrebbe essere anche quindi questa condanna. Quindi bisogna avviare una causa di cui si abbia la convinzione che possa passare. Tant'è vero che uno dei motivi, voglio dire, per l'inammissibilità è proprio la manifesta infondatezza, cioè quando si promuove una causa totalmente infondata, allora in questa ipotesi, oppure negli altri due casi, credo che sia conflitto di interessi, oppure il terzo riguardava, se non vado errato, l'inesistenza di interessi, come dire, collettivi. Che sia. In questi casi il giudice alla prima udienza, immagino, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'azione, e quindi questo potrebbe comportare anche una, come dire, una condanna, diciamo, al pagamento di una somma decisa dall'autorità giudiziaria, che dovrebbe così, insomma, cercare di sminuire il ricorso infondato, così un deterrente. Guarda che ti multo se mi fai fare un lavoro inutile, sì, perché tu in realtà ricorri all'autorità giudiziaria. No, ma questo però è incredibile, non esiste niente del genere, credo, nel nostro paese. Sì, non conosco io la legge. No, non esiste, non esiste. Esisterebbe, voglio dire, una condanna ex articolo 96, no, del codice di procedura civile, per evidentemente quando si ha, evidentemente nell'ipotesi di lite temeraria, no? Però è poco applicata, in genere i giudici non fanno ricorso a questo strumento, che dovrebbe essere, potrebbe essere, se debitamente, voglio dire, focalizzato dai giudici, uno strumento di deterrenza non da poco. No, anche perché poi dicevamo prima, adesso a parte il fatto che ovviamente la retroattività è stata cancellata, però sempre appunto le associazioni dei consumatori già dallo scorso anno erano pronte con una massa incredibile di azioni pronte ad essere presentate appunto ai tribunali, e quindi sarebbe stato anche molto divertente vedere che cosa sarebbe accaduto se tutte queste iniziative fossero partite e molte di queste fossero state dichiarate dai tribunali appunto infondate. Paolo Landi, segretario generale della Diconsum, sentiamo anche lui. Si parla di interessi identici. Interessi identici sono pochissimi, normalmente sono interessi omogenei tra un consumatore e l'altro, e quindi se rimane la parola identico vuol dire restringere questa portata dell'azione collettiva in modo notevole. Non solo, ogni consumatore deve portare in tribunale la documentazione probatoria. Provi a pensare che cosa succede quando migliaia di persone o milioni di consumatori che sono vittime devono andare su quel tribunale a portare la propria documentazione. Sarebbe la paralisi totale di quel tribunale. Proviamo a pensare, e c'è scritto nella norma, che nel caso in cui il giudice non ammetta l'azione collettiva, non la riconosca, il giudice può stabilire una condanna dei consumatori a pagare una multa all'impresa, cosiddetto danno punitivo, quindi un rischio elevatissimo per coloro che si avviano a realizzare delle azioni collettive. Infine, il testo dice che chi promuove l'azione collettiva deve fare pubblicità dell'azione collettiva. In altre parole, prendere delle pagine a pagamento dei giornali per dire c'è questa azione collettiva in corso. Anche questo i consumatori non sono in grado. Noi diciamo di sostituire pubblicità con informazione. Quindi le cinque modifiche che noi proponiamo sono cinque modifiche ragionevoli per rendere questo testo efficace. Chissà se ne è stato preso atto di queste cinque modifiche in Senato. Giovanni, tra l'altro di questo non abbiamo commentato. Le cinque modifiche che le associazioni dei consumatori hanno proposto sono arrivate a Palazzo Madama o no? Beh, sotto forma di emendamenti o di subemendamenti, di insomma, nell'articolazione del lavoro parlamentare, non lo so sinceramente, avendo avuto un certo eco anche da parte della stampa, noi stessi ci abbiamo fatto un pezzo, diciamo che i senatori ne sono assolutamente informati, e quindi se volessero modificare in questo senso, tra l'altro alcune delle modifiche mi sembrano comunque anche abbastanza ragionevoli, devo essere sincero, quindi si potrebbe almeno alcune accoglierle tranquillamente. Eccoci di nuovo in diretta. Ho fatto togliere le cuffie ai miei ospiti di questa mattina, stavamo continuando un po' a discutere di tutto tutti, come dire, i dubbi e le questioni che la normativa che è in corso di discussione al Senato sulla class action apre e aprirà presumibilmente. Peraltro c'è anche un altro aspetto molto curioso, interessante, perché il singolo o l'associazione o il comitato promotore di un'azione collettiva dovranno, secondo la formulazione della legge attuale, l'azione appunto dovranno proporre l'azione davanti al tribunale che ha sede nel capoluogo della regione dove è collocata l'impresa, per cui un numero molto limitato di tribunali, Giovanni Negri. Sì, oltretutto è previsto anche una sorta di accorpamento delle competenze su base regionale, che so, per esempio per la Val d'Aosta bisogna andare a Torino. A Torino, sì. E così pure in altre per Marche, Abruzzo, Umbria e Molise tutti a Roma, per Basilicata e Calabria tutti a Napoli, per Trentino e Friuli Venezia Giulia Venezia, eccoci qua. Ecco, devo dire sì, questo è vero. Io ci colgo un piccolo elemento positivo, perché ci si è sempre lamentati del fatto che manchi nel nostro paese una magistratura specializzata nel diritto dell'economia. Ecco, se in una materia tanto delicata come questa ci sarà un'effettiva specializzazione anche da parte dell'autorità giudiziaria e l'accorpamento delle competenze, se non altro dal punto di vista territoriale va un pochino in questa direzione, ecco, io lo vedo tutto sommato in maniera positiva. 800 24 00 24, avete ancora qualche minuto di tempo per intervenire con le vostre considerazioni sull'argomento. Tommaso da Milano, è il suo momento. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Senta, io evidentemente mi è scappato qualche passaggio, perché io quando ho fatto l'avvocato e ho studiato, mi hanno sempre detto che il diritto al risarcimento del danno consegue primo all'esistenza del danno, secondo a dimostrare l'entità del medesimo, terzo alla relazione, nesso di causalità tra l'azione e il danno. Sì. Ora, se è vero tutto questo, perché ci si lamenta se il disegno di legge 131 dà il diritto anche al singolo di iniziare l'azione? Questo è uno. Perché ci si lamenta se l'associazione oppure i comitati che tutelano gli interessi della classe sono altresì legittimati a promuovere l'azione collettiva, purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse? Cioè, qual è lo spirito della legge da questo? Sto leggendo, ho letto il secondo comma dell'articolo 3. Sì. Qual è lo spirito di questo? Che titolare del risarcimento del danno, che è un diritto personale, non può essere un'associazione se non l'ha subita l'associazione. Sì, Tommaso, è stato chiarissimo, però ovviamente io non ho assolutamente la capacità per poterla ribattere, devo assegnare la risposta e una considerazione, se vuole, all'avvocato N. Ha ragione Tommaso, che ha qualche dubbio insomma sullo spirito della norma secondo i criteri generali del diritto. Il radioascoltatore ha ragione, nel senso che per avere un risarcimento che in genere è personale, uno deve avere un diritto che è stato leso, che quindi ad avere riportato un danno in relazione al quale si può rivolgere all'autorità giudiziaria. Insomma, relazione tra azione e danno, sì. È sicuramente vero questo. Quello che credo che si voglia fare adesso con l'azione collettiva è qualcosa di più. Si vuole cercare di favorire una serie, diciamo, di comportamenti illeciti che investono non solo una persona ma diversi soggetti, e quindi si vuole favorire la concentrazione in un processo senza l'intervento di vari, di diversi, insomma di numerosi soggetti, per favorire appunto una decisione con economia di giudizi, credo. Ora, sotto profilo, voglio dire, pratico, che questo si attui attraverso il ricorso alle associazioni oppure attraverso il ricorso alle persone fisiche unitamente alle associazioni, è uno strumento che lascerei al legislatore, insomma, perché francamente l'uno o l'altro a mio avviso sono indifferenti, ecco. L'importante è cercare evidentemente di come dire, arrivare a una soluzione che sia, voglio dire, nell'interesse, diciamo, della collettività. Solo così, secondo me, si ha un vantaggio rispetto alla situazione attuale. Allora, io intanto continuo un po' a monitorare le telefonate che ci stanno arrivando da parte degli ascoltatori e così non dico che non lo stiamo facendo passare, ma siccome sono veramente quasi tutte identiche, cioè quasi tutte chiedono di Alitalia, poi c'è un azionista di Italise che vorrebbe capire che prospettive ci sono alla luce di questa normativa che sta arrivando per sé. Beh, Italise da domani parte l'offerta offerta pubblica di acquisto del Banco Popolare, per cui intanto c'è questa facoltà. Mi rendo conto che il prezzo rispetto magari ai prezzi di carico di molti azionisti è assolutamente basso, per non definirlo in un altro modo, però insomma qua non stiamo parlando di un caso al momento di dissesto finanziario, di un crack finanziario che ha comportato conseguenze particolarmente gravi come è accaduto per altre circostanze. Comunque pare di capire, Giovanni, che proprio la materia finanziaria deve essere tenuta in considerazione in questa fase di passaggio al Senato, ma non so come ci potrà entrare adesso per il rotto della cuffia degli ultimi minuti. Beh, è abbastanza difficile, direi. Abbiamo già detto che già è controverso, insomma, il fatto che si possa applicare in questo settore. L'unico grimaldello al momento per poter utilizzare l'azione collettiva nella materia del risparmio è quella dei cosiddetti contratti conclusi attraverso moduli o formulari, contratti seriali, diciamo così, quelli che magari le banche propongono proprio agli investitori. Ecco. Però va anche detto che, ad esempio, nella normativa, nel testo unico della finanza, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte con la MiFID, ecco, esistono in ogni caso degli strumenti per tutelare anche in maniera collettiva chi è stato vittima di sollecitazioni sbagliate da parte degli intermediari, da parte degli istituti di credito. Ecco, quindi bisognerà fare estrema attenzione a questo. E poi, se mi è permessa solo una piccola osservazione, visto che ci stiamo avviando lentamente verso la conclusione della trasmissione, vorrei fare solo questa piccola precisazione, sì, che credo possa essere utile per gli ascoltatori, perché noi abbiamo dibattuto sinora per tutta questa trasmissione della class action nel settore privato. Attenzione, dalla scorsa settimana Brunetta, infatti, chiudiamo con il ministro. Ecco, dalla scorsa settimana per il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che avrà tempi di entrata in vigore relativamente brevi questa volta, nel senso che dovrà andare in Parlamento solo dal punto di vista formale per avere i pareri delle commissioni. Ecco, viene introdotta una forma di tutela collettiva a favore degli utenti dei pubblici servizi. L'ospedale non funziona, non è in grado di fornire un servizio adeguato, il treno arriva tardi, abbiamo sentito, no, spesso dalle cronache di questi mesi, facciamo l'azione collettiva per i ritardi delle ferrovie. Ecco, con questa azione, con questa class action nel settore pubblico voluta da Brunetta in questa sua ansia riformatrice, ecco, sarà possibile farlo, però c'è un però grosso da ricordare. Non aspettiamoci nessun risarcimento, esatto, in termini economici. Non si otterrà un euro da questa azione, cioè l'obiettivo è quello del ripristino degli standard di efficienza del servizio pubblico. Eh beh, però non ci dispiace, insomma, anche questo, come dire, cominciare ad arrivare un po' puntuali con i treni, con i mezzi di trasporto pubblici, insomma, sarebbe anche quello già un bel vantaggio, anche economico, perché il tempo è denaro. Sì, lo so che ci rimangono pochi secondi, volevo far concludere all'avvocato N, così gli do il beneficio della conclusione, perché ci ha fatto molto piacere averlo qua, ma anche perché per la prima volta è venuto a Salvadanaio. Insomma, l'idea è anche come dire, far passare il messaggio che è comunque uno strumento molto importante, ma che dovrà essere utilizzato con una certa responsabilità. Direi di sì, perché se vuole essere un qualcosa di innovativo, diciamo, una disciplina, questa disciplina deve tener conto di questo. Bisogna quindi poterla utilizzare, però insomma con grano sale. Ebbene, se allora anche quando gli studi legali avranno la normativa definitiva in mano, ci aiuteranno a capirne qualcosa di più, anche che utilizzo responsabile possiamo farne noi tutti, anche ovviamente con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Grazie molto per essere stati grazie con noi. Voi. Salvadanaio torna domani. Buona giornata a tutti.